известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. You know, the meetings that I've had here in Brussels, starting with a wonderful dinner hosted by the Belgians of both NATO and EU members, was a freewheeling discussion. I was thrilled. C'è Hillary Clinton che fa un bilancio della freewheeling discussion, della discussione a ruota libera che ha avuto con i leader della NATO e anche naturalmente dell'Unione Europea, e lo dice con grande soddisfazione, traendo quello che per sua voce sembra un vero e proprio bilancio positivo, comunque un inizio costruttivo di una strada che si può percorrere insieme e di cui ha posto le basi al termine di questa settimana di cui Hillary Clinton è stata la vera protagonista sulla scena internazionale. Per questo motivo riteniamo cosa buona e giusta oggi dedicarle questa apertura di Jefferson per festeggiare, per omaggiare, diciamo così, quella che ci viene voglia di chiamare come la storia, la vera storia di una rivincita, di un ritorno, di una ricostruzione di una carriera, di una personalità, di una presenza. Se pensate che solo sette mesi fa Hillary Clinton era veramente una donna non sull'orlo, ma direi anche quasi dentro il bar, insomma, di un esaurimento nervoso, di una grande stanchezza, di un terribile senso di sconfitta dopo che la sua campagna elettorale, presentata come la macchina perfetta e inarrestabile che avrebbe riportato i democratici, ma soprattutto la prima donna alla Casa Bianca, era stata letteralmente stritolata da Barack Obama, quello stesso Barack Obama che però dopo averla sconfitta ha saputo non umiliarla, non le ha neanche offerto, come a lungo si era pensato, supposto, quella vicepresidenza, e addirittura lo si era criticato per questa mossa, per aver scelto il più angolare, discutibile Joe Biden, e invece poi l'offerta è arrivata. L'offerta era accompagnata da un cospicuo mazzo di chiavi, quelli della politica estera, della diplomazia americana, di cui Hillary Clinton è diventata la responsabile come segretario di Stato, e questa settimana, che era stata peraltro preannunciata come la settimana della prima seria apertura, prima seria discesa in campo della diplomazia americana sullo scenario internazionale, Hillary Clinton si è confermata una protagonista di razza, un personaggio di grande capacità di influenza, di indirizzo, capace di orientare, di proporre, soprattutto di costruire e anche di chiedere. Tutto questo ha fatto nel corso della sua trasferta in Medio Oriente e successivamente a Bruxelles, nel corso dei quali ha cominciato a tessere tante tele che tutte insieme sembrano dare il disegno di un nuovo ruolo positivo giocato dall'America sui teatri internazionali. Adesso vedremo alcune note degli ultimi risultati, ma volevamo partire proprio con una specie di cartello, no? Di omaggio, di ammirazione per una condotta sugli scenari massimi della politica internazionale che ci è sembrata ancora una volta di gran classe. E dunque, vediamo un po' di notizie che riguardano Hillary Clinton. Gli Stati Uniti vogliono cooperare con la Russia nonostante molti punti di disaccordo tra le due ex superpotenze. Questo per quello che riguarda la Russia. Vedrete, ne ha un po' per tutti in queste sue dichiarazioni di sintesi. Abbiamo divergenze, ma sulle molte questioni che abbiamo davanti pensiamo che Stati Uniti, Unione Europea e Russia possano essere partner, ha detto a Bruxelles. Gli Stati Uniti sperano davvero che potremo trovare temi di accordo e cooperazione. Avremo disaccordi, certamente. Parlando della Georgia, ha detto che l'uso dell'energia come strumento di intimidazione ci turba molto. Il diritto di veto della Russia all'ingresso di qualsiasi paese nella NATO, nell'Unione Europea, il concetto di sfere di influenza altrettanto, mentre il terrorismo, la non proliferazione sono temi su cui abbiamo l'opportunità di collaborare subito. Gli Stati Uniti sono favorevoli, secondo Hillary Clinton, a un'Europa forte, vuole lavorare per rafforzare la relazione transatlantica. Obama vuole essere un partner solido dell'Europa, ha insistito. Queste due grandi istituzioni dovrebbero collaborare senza intoppi, ma non dobbiamo sprecare le nostre energie e le nostre risorse, piuttosto concentrarci insieme sulla stessa agenda, ha detto incontrando il ministro degli esteri ceco Karel Schwarzenberg, padrone di casa in quanto rappresentante della presidenza di turno all'Unione Europea. E ancora ha affermato naturalmente che l'attuale crisi economica, lo ha già ribadito più volte questo tema, è un'opportunità da non sprecare per fare finalmente gli investimenti necessari per la graduale riconversione verde dell'energia e porre le basi di un accordo globale sul cambiamento climatico alla conferenza ONU di Copenaghen che è prevista per il prossimo dicembre. Va anche sottolineata come progressivamente si va denotando in modo diversamente costruttivo dagli ultimi due mandati presidenziali l'intenzione di partecipare all'assise come quella di Copenaghen o come quella di Londra, sai, più imminente, con una volontà appunto di collaborazione. Clinton ha ricordato di aver visitato recentemente diversi paesi asiatici ai quali ha offerto di diventare partner in vista della conferenza di Copenaghen. Gli Stati Uniti, che non hanno voluto impegnarsi sul protocollo di Kyoto, erano il primo paese al mondo per le emissioni di gas serra, ma ora, ha detto ancora Clinton, la Cina ci ha superato e senza la Cina, l'India, l'Indonesia e altri paesi non saremo abbastanza per dare su questo tema una risposta davvero globale. Ha parlato anche di scudo antimissile, verrà installato in Europa se la sua efficacia e convenienza verrà dimostrata. Con la Russia ci sarà l'opportunità di cooperare sullo sviluppo, la ricerca e in caso di accordo anche sul dispiegamento. Questo è il pensiero di Hillary Clinton in vista dell'incontro che avrà questa sera con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, uno degli incontri finali e più attesi di questa sua tournée europea. Israele, gli insediamenti israeliani in Cisgiordania non aiutano il processo di pace, saranno oggetto di discussione in sede di negoziati per la soluzione al conflitto. Questo lo ha detto nel corso di un dibattito al Parlamento della Unione Europea con rappresentanti dei giovani europei. I negoziati di pace in Medio Oriente inizieranno subito, non appena sarà formato questo benedetto governo israeliano che mezzo mondo sta aspettando, e avranno come obiettivo arrivare alla soluzione dei due stati. Da parlare anche di Cina, della Cina ha detto che dalla Cina arrivano segnali incoraggianti circa la disponibilità a partecipare all'accordo globale per limitare i cambiamenti climatici. Sono stata rincuorata dalle discussioni che ho avuto con il ministro degli esteri e altri rappresentanti cinesi nel corso della puntata a Pechino, di cui ricorderete vi abbiamo dato anche conto grazie ai nostri inviati. Erano piuttosto ansiosi di partecipare al summit di Copenaghen, ha detto parlando dei vertici cinesi Hillary Clinton. Insomma, pensate che se oggi, stamattina aprivate le agenzie, no? E cercavate di Obama, venivano fuori, ricordo, 5 notizie, cercavate di Hillary Clinton, ne ho contate 22 per dare anche, come in certo senso quantitativamente, la presenza in questo momento, la presenza qualitativa ma anche quantitativa del lavoro svolto dal nuovo segretario di Stato. E Obama un po' più in basso profilo nel corso di questa settimana. Però una cosa importante è uscita dalla Casa Bianca ieri ed è questo vertice che si è tenuto sul dibattito riguardante la riforma sanitaria, uno dei punti più importanti dell'avvio di amministrazione Obama. Ci sono 120 le persone che sono state invitate a partecipare a questo dibattito sulla riforma sanitaria della Casa Bianca. C'erano dirigenti del settore farmaceutico, rappresentanti di quello assicurativo, medici, pazienti e addirittura detto Barack Obama, fatemi essere chiaro, gli stessi costi devastanti che stanno mettendo sotto pressione i budget delle famiglie affondando le nostre imprese stanno divorando il bilancio federale. La più grande minaccia che pesa sul budget della nazione è rappresentata proprio dai costi del sistema sanitario. Di conseguenza, effettuare investimenti che puntino a un forte calo dei costi non si tradurrà in un aumento del nostro deficit nel lungo termine, piuttosto è uno dei modi migliori per abbassarlo. Quindi un presidente che in un certo senso si è spartito, come capirete, i compiti con Hillary Clinton, continua a lavorare sulla politica interna mentre ha demandato a Hillary tutti i compiti di rappresentatività per quello che riguarda il resto del mondo. Poi le cronache, le spigolature dei giornali in queste ore gli danno anche qualche pizzicotto. C'è un grosso articolo dell'Herald Tribune che parla del vizio di Obama di andare in giro col gobbo, no? Ovvero con il lettore elettronico su cui scorrono le parole dei suoi discorsi. Non se ne vuole separare mai. Mi sembra che sia anche un po' di cattiveria in un uomo che ha dimostrato anche a braccia di saper parlare piuttosto benino. E poi invece grande periodo di popolarità per un'altra donna in area Casa Bianca, ovvero la First Lady Michelle Obama, ormai maître à penser, no? Dello stile, della moda internazionale, e anche dama della povertà, non di San Vincenzo ma di qualche santo americano. Se è vero che ieri ha servito il pasto a una mensa dei poveri a Washington, dove si è presentata a sorpresa. Il menù era risotto ai funghi a una cinquantina di donne e uomini nei locali della Miriam Kitchen, un'associazione benefica legata a una chiesa presbiteriana. Sarà un po' maternalistico un atteggiamento del genere, ma tutto sommato non dispiace da parte di una First Lady. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, and her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen as she walks through the sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more. It's about to be lived again as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at that lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on? Uno che ne sapeva parecchio di vita tra le stelle ci assicura, Ziggy Stardust, David Bowie ci assicura che c'era vita su Marte, c'era negli anni 70, figuriamoci adesso. E c'è anche chi ci assicura che se hai una moglie scorpione ascendente leone come Hilary, lo dice Federico che ha anche una moglie. Ah, non è un messaggio di Branco di questo formato, si ha a che fare con una donna eccezionale, pare, garantisce Federico, dice si fidi, le possono massacrare loro, possono essere massacrate, non muoiono mai. Non muoiono mai, bisogna vedere chi hanno davanti. Avessero per esempio, no, un uomo come li facevano una volta quelli che hanno buttato lo stampino, vediamo se Hillary se la cava. Stiamo parlando del modello Clint Eastwood, a cui abbiamo dedicato il nostro richiamo sulla bacheca di Facebook, a cui dedicheremo tra poco una chiacchierata a sfondo cinematografico per l'uscita di Gran Torino, il suo nuovo film. Non perché improvvisamente abbiamo deciso di fare I piccoli critici crescono, ma perché questo film che parla di un operaio in pensione, no, da Detroit alla Ford, e della difficoltà di continuare a essere americani di un certo tipo, tutti di un pezzo, no? In un certo senso è messa in crisi poi da questa America XXI secolo che proprio, no, il modello Obama si sta portando dietro. E allora vi abbiamo posto anche a voi la domanda, insomma, la malinconia di un film del genere, quali riflessioni vi provoca? Anche se non l'avete visto, potete immaginarlo, il roccioso, silenzioso Clint Eastwood alla presa con gli immigrati coreani. Il vecchio Clint è il tipo giusto per intercettare qualcosa di connesso all'avvento dell'America multirazza di Obama? Allora, sul nuovo film di Clint Eastwood, classe 1930, e quindi siamo sulla soglia degli 80 anni, ma è ancora immarcescibile tra noi, Clint, rispondo subito a Matteo che ci chiede se il film è già uscito in America, sta uscendo in questi giorni, in realtà è uscito da un bel pezzo. Esce in Italia. Sta uscendo in Italia, poi c'è invece Daniel che ne ricava così una morale, il vecchio, il nuovo, ma da qualsiasi parte si guardi ci vuole sempre un gran rispetto altrui. E poi c'è Simone che è prudente e dice: aspetterei di vederlo prima di dare giudizi. Comunque il buon Clint incarna da sempre lo spirito della vecchia Right Nation e riesce ad uscire fuori dal coro delle voci liberal di Hollywood, questa militanza repubblicana di Eastwood che viene sempre reclamizzata. Però proprio quella Right America che adesso sta cercando di ricostruirsi un'identità e ha dei problemi di identità. Lui c'era schierato con McCain. Di questo parlavamo. Ma sì, però insomma Eastwood è sempre stato poi alla fine un anarchico modello americano. Battitore libero. Modello americano. Giulio dice: gli operai delle grandi fabbriche automobilistiche che hanno fatto l'America mi fanno venire in mente i primi pionieri che colonizzavano il West. Giuseppe scrive: come sempre l'America anticipa i tempi e quanto raccontato riassunto da Eastwood tra poco, se non già ora, potrebbe benissimo realizzarsi a Mirafiori. Bravo Giuseppe, basta sostituire i coreani con i rumeni e i marocchini. Luigi: beh, almeno Clint alla pensione, il personaggio Walt, ci è arrivato, i suoi colleghi della GM, Ford e Chrysler, chissà. Una voce invece fuori dal coro tra i nostri ascoltatori, Gabriele, dice: ho visto il film qualche settimana fa, due parole scritte peraltro in maiuscolo, che noia, sicuramente non è nulla di nuovo, tanto per cominciare, e talmente noioso che ammetto di aver chiuso 10-15 minuti prima della fine, quindi a Gabriele il film di Clint non è proprio piaciuto. Poi c'è Faber che fa un bel paragone anche lui con l'Italia, non arriva a parlare di Mirafiori ma siamo lì vicino, perché dice: non ha visto il film, però dalla premessa iniziale mi sembra che si tratti di integrazione. In Italia, a dispetto delle cronache e dei media, io l'integrazione la vedo già molto ben avviata. Oggi, passeggiando per il centro di Torino, quindi non lontano da Mirafiori, ho visto molte scolaresche con almeno 2-3 bambini per classe, figli di immigrati orientali, nord e centroafricani. Tutto era normale e perfettamente plausibile. Bel messaggio. E basta che non ci sono le classi solo di... Quella è un'altra cosa pericolosa, vabbè, secondo me. Chi ha i figli a scuola sa di che cosa sto parlando. Comunque, Matilde, è vero che forse sarà l'ultimo film in cui si vedranno i grandi camion? C'è la crisi che se li potrebbe portare via. Fabio, quindi la visione, no, di quella America che sta veramente col fiato corto. Fabio: la multiculturalità delle società di ogni latitudine è un processo irreversibile, incontrovertibile. Mukeba, Clint e Obama sono due facce della stessa medaglia che condividono un passato, Eastwood, e che cercano di darsi da fare per un futuro, Obama. Monica: molto difficile capire ciò che da noi è diverso quando un mondo ci è appartenuto. Tanti altri, il tempo è tiranno, siamo arrivati? Sì, siamo al momento della musica. Bene, riparliamo comunque di Eastwood, a voglia, tra pochissimi minuti, dopo le notizie di borsa. Details fall away. The shrieking. Come here, girl. Stop! Let go! What you looking at, old man? Ever notice how you come across somebody once in a while you shouldn't have messed with? That's me. Io non so se la sentite questa voce e non so se si può far sentire un'altra voce dopo. Dopo la voce di Clint, insomma, abbiamo fatto questo prologo con i vostri pareri quasi tutti espressi giustamente, sanamente al buio. Il film non si è ancora visto in Italia, è in prossima uscita, ma il sapore della presenza di Clint, di Clint Eastwood al momento in cui affronta un personaggio così come quello che vi abbiamo descritto, un pensionato rimasto vedovo, ex operaio alla catena di montaggio di uno dei colossi dell'industria automobilistica americana, che si trova nel suo quartiere, no? Dove ha costruito la sua vita alle prese con qualcosa di nuovo, inatteso e sempre più presente, ovvero la multirazza, ovvero l'America che cambia, l'America da una parte, l'America che discende giù, no? dal sogno dei pionieri, passa attraverso John Wayne, le grandi individualità e i grandi individualismi, ed arriva fino agli ultimi anarchici silenziosi, rocciosi ma affidabili, quelli che comunque hanno costruito un'America, una right America, come diciamo prima, ma un'America con un'identità ben precisa e una nuova identità americana. C'è questo film che si chiama Gran Torino, diretto Gran Torino è un modello di automobile che ha poi un ruolo all'interno della pellicola, diretto da Clint Eastwood, che lo interpreta anche nel ruolo principale, che ci sembra che, al di là del peso cinematografico, abbia però anche un valore descrittivo dell'America di oggi. Ma di tutto ciò però vogliamo parlare meglio con Maria Rosa Mancuso, che è un'amica di Jefferson, il critico cinematografico del Foglio, ed ha visto Gran Torino. Ciao Maria Rosa. Buongiorno. Allora, che cosa ne pensi di questo discorso e di questi piccoli ragionamenti su una possibile rappresentatività dell'americano messo in scena, forse apposta, diciamo, da Clint Eastwood? C'è tutto questo e c'è anche dell'altro, perché c'è anche l'ispettore Callaghan, mm-hmm, che sembra apparecchio invecchiato, ma sicuramente non ha perso il suo senso della giustizia. Se, come pare, l'ultima parte di Clint Eastwood, Clint Eastwood ha fatto un piccolo miracolo, ha riassunto tutti i film precedenti e riesce a stare in scena trascinando una gamba con i suoi vestiti da vecchio, grugnisce varie volte e c'è una scena meravigliosa dove i figli, che ormai stanno lontano, siccome lui vive da solo, prima gli regalano proprio dei regali da vecchio, il telefono con i tasti grandi, gli mostrano alcuni dépliant di case di riposo, eccetera, e lui lì di nuovo ringhia, grugnisce e riserva lo stesso atteggiamento, almeno all'inizio del film, alla famiglia di Musigialli è il termine più gentile che usa, ce n'è un elenco lunghissimo, mm-hmm, sembra che se li inventi apposta, di questi Hmong che vivono a fianco. Ma ti sembra che ci sia un'intenzione nel film, nel pensiero, nel progetto di Eastwood, cioè ha voluto in qualche modo prendere posizione su questa America che, volenti o nolenti, gli americani alla Eastwood devono accettare che sta cambiando? Credo di sì, però come tutte le grandi storie non c'è un messaggio diretto, perché è vero che da una parte c'è prima l'odio per i vicini, l'idea che non puoi mettere neanche un piede sul mio prato, l'idea che cucini delle cose puzzolenti, l'idea che io non voglio parlare con te. Tutto questo c'è, però dall'altra parte c'è tutto un altro discorso, che è quello che alla fine... Che cosa viene fuori? Viene fuori che l'operaio, l'ex operaio della catena di montaggio, con un fortissimo senso della famiglia, vede nei nuovi arrivati quello che era la sua famiglia e che non è più. Quindi c'è anche un discorso sul maschile, per esempio, certo, che è molto forte, certo, che lo fa somigliare a Cormac McCarthy, non al Clint, diciamo, buonista che è stato per un po'. Mi piace molto questa connessione con Cormac McCarthy e con i suoi film, come quella di un'America che è stata a lungo, no, diciamo, centrale, in un certo senso, mainstream nella classicità, nella forza della sua rappresentazione, e che adesso invece si trova un po', no, ai margini, e anche poi addirittura in termini politici, no, con l'avvento di Obama, di una differenza, insomma, in un certo senso un po' spiazzata. Ma tu pensi che sia un film destinato ad avere le gambe, a fare parlare in America, magari a approdare a riconoscimenti? Che cosa se ne dice attorno? Ma io spero di sì. Il film è piaciuto molto, è piaciuto anche alle persone che come me non avevano molto amato, per esempio, il film con Angelina Jolie, Changeling, certo, che mi era sembrato un gran film fatto con molto spreco, molti bei vestiti, ma in sostanza non era tanto interessante dal punto di vista drammatico proprio dello svolgimento della storia. Invece questa storia, che è stata scritta da uno sceneggiatore debuttante che si chiama Nick Schenck, secondo me il dono dei bei film, riflette una situazione che sta intorno, perché è un film che è fatto adesso, non si poteva fare 10 anni fa, certo, come altri film di Clint Eastwood, come The Changeling per esempio, e nello stesso tempo è molto complesso, come è complessa la situazione, perché appunto da una parte c'è il rifiuto totale di chi sta arrivando, e poi si scontrano e si confrontano non il dialogo, ma una cocciutaggine, una forte volontà contro un'altra forte volontà. Non parlano mai, si scontrano, e nello scontrano alla fine riescono anche a sviluppare un barlume di amicizia, riescono a convivere, però nello scontro come nel West. Senti, ma c'è anche qualcosa di questa, che devo dire con un tempismo invidiabile, di questa industria automobilistica che a sua volta sta cominciando a pagare, no, il prezzo della sua età, forse del suo formato, che non è più quello confacente alla società americana del XXI secolo? Ce n'è qualche eco nel film? Beh, certo, ce n'è qualche eco, non solo nella Gran Torino, che viene mostrata, certo, lucidata, lavata con lo shampoo, eccetera, ma in una battuta che il giovane ragazzo Mong fa quando sa che la Gran Torino è una macchina degli anni 70. È quella di Starsky e Hutch, no? La Gran Torino. Certo, solo che questa è verde. Ho capito. Quando il ragazzino sa che Clint Eastwood, che appunto ha l'aspetto da vecchio, ha partecipato alla linea di assemblaggio di questa macchina, lo guarda e dice: ma allora sei vecchio davvero. Senti, per concludere, a proposito di vecchio davvero, ma che si sa di Clint arrivato a questa, insomma, ormai venerabile età? È ancora un artista produttivo, come dicono gli americani, o ci siamo, sta per appendere le scarpe al chiodo, insomma, per dedicarsi a una piacevole pensione? Lui ha detto che vuole appendere le scarpe al chiodo. Bisogna dire che però... Potrebbe essere il suo canto del cigno, insomma, questo. Sì, quando uno fa un film così viene voglia di vederne altri, viene voglia che sia lui a scoprire anche altri sceneggiatori. Va bene, grazie di queste anticipazioni, anche di queste considerazioni attorno a Gran Torino, il nuovo film di Clint Eastwood, che ci sembra appunto abbia delle vocazioni interessanti per chi vuole analizzare, così conoscere, provare a indagare l'America di oggi. Da Maria Rosa Mancuso, critico cinematografico del Foglio. 360 gradi. News dai punti sensibili del pianeta. E allora, prima dell'ultimo collegamento spericolato, andremo a Pechino, però prima vediamo alcune cose in atto. Comincio io al volo. Su CNN è appena apparso questo dato da far correre i brividi sulla schiena degli americani, e mi sa non solo degli americani. Posti di lavoro perduti a partire dal periodo gennaio 2008, febbraio 2009, cioè 13 mesi, 4,4 milioni, una cifra impressionante, che supera le più tristi previsioni anche dell'amministrazione entrante. 651.000 posti di lavoro perduti soltanto a febbraio. Soprattutto la disoccupazione sta colpendo i giovani, e ci sono dei massimali degli ultimi 25 anni. Non si era arrivato a dei livelli così neri negli ultimi 25 anni. Mi sa che si va verso quella soglia anche psicologica del 9% come soglia di disoccupazione degli Stati Uniti. Sì, 8.1, stiamo 8.1 adesso, ma mi sembra alla che soglia del baratro. Come si dice, corre, i numeri corrono. Allora, io invece vado in Cina con una notizia che credo possa anche interessare chi ci sta già ascoltando, che tra poco verrà introdotto, che insomma di soldi e soprattutto di marketing se ne intende, perché nonostante la crisi, nonostante questo periodo cupissimo per l'economia mondiale, la Coca-Cola ha annunciato che investirà 2 miliardi di dollari, quindi un bel gruzzolo. Cifre da budget. da quasi nazione, insomma, certo, un pezzo certo. Di finanziaria italiana, certo, non, certo. Non indifferente. Insomma, investirà questi 2 miliardi di dollari in nuovi impianti e produttivi e in infrastrutture in Cina nei prossimi 3 anni. L'investimento peraltro si aggiunge ad un altro di 2 miliardi e mezzo, quasi 2,4 miliardi, per l'offerta di acquisto della società locale si fa per dire, perché la Cina è un piccolo continente, che si chiama Yuan Juice Group, che poi è la principale produttrice di bevande e succhi della Cina. E a quel punto, se l'offerta verrà accettata, sarà la più grande acquisizione di una società cinese da parte di un gruppo straniero, in questo caso il marchio per eccellenza forse mondiale. Beh, verrebbe, cioè verrebbe voglia di dire benvenuti, cari signori cinesi, nel mondo occidentale. Ma invece noi diciamo benvenuto a Giuliano Noci, docente di marketing al Politecnico di Milano, esperto di Cina, veterano, ormai frequentatore veterano di Jefferson, ci ascolta e ci risponde da Pechino. Abbiamo parecchie cose da chiedergli, ma prima di tutto lo salutiamo. Salve Giuliano. Ciao, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Allora, io vorrei, se riusciamo, vediamo se riusciamo a consumare gli argomenti che sono tanti con una certa rapidità, ma prima di tutto, insomma, nel corso di questa tua visita cinese sono successe delle cose interessanti da parte dei pezzi da 90, sia Wen Jiabao che Hu Jintao hanno detto delle cose. Io vorrei cominciare da questa molto pubblicizzata chatline, insomma, questa chiacchierata fatta da Hu Jintao per via telematica, che, come dire, ha fatto un po' sbarrare gli occhi, no? A Oriente e Occidente. Ne sai qualcosa? Ci puoi raccontare qualcosa? Sì, assolutamente, ha fatto sbarrare gli occhi a tutta la comunità cinese. Hu Jintao è stato sabato ben 2 ore a chattare con la popolazione cinese, con gli internauti cinesi. Si dice che tutto fosse assolutamente spontaneo. Hu Jintao ha rassicurato la popolazione. La stampa nei 3 giorni successivi ha dedicato un'enorme attenzione a questo evento. Hu Jintao si è ripromesso di rientrare in contatto con gli internauti nonostante i molteplici impegni che lo affliggono. Povero uomo. Ecco, ma in tutto ciò è uscito fuori qualcosa anche in relazione, insomma, a questa griglia di non totale libertà nel quale vive la telematica, no? L'internet e la rete in Cina, o niente, si è glissato sull'argomento secondo te? No, si è molto glissato, anche se devo dire con franchezza che ho trovato un episodio per far capire come le cose stiano cambiando. A Hongqiao, l'aeroporto di Internica usata per trasferirmi da Shanghai a Pechino, ho trovato per la prima volta un'edicola della Virgin con la possibilità di dare quotidiani. È una cosa assolutamente che mi ha colpito, perché non l'avevo mai visto. Appena introdotto, qualcosa forse sta cambiando. Noto anche sul China Daily un minimo di propaganda in meno. Forse abbiamo intrapreso la direzione piccolo cambiamento verso un minimo di libertà in più. Allora, se Hu Jintao in questi ultimi giorni così ha giocato la carta della comunicazione popolare, un po' grassroots per dirla alla americana, invece Wang Jiabao si è reso protagonista di discorsi diciamo di peso, di impegno più programmatico, no? Per continuare a ribadire, a spiegare quale vuole essere il ruolo della Cina in questa situazione di grande disordine sotto il cielo, è così? È così, direi che i temi che sono due sostanzialmente i macro temi. Uno, la Cina che fala anche nei confronti della popolazione interna sempre più la voce grossa dicendo che devono andare a braccetto con gli Stati Uniti anche se assumendo un ruolo diverso rispetto al passato. Il secondo tema, che è quasi ormai una litania, il fatto che la crescita dell'8% del prodotto interno viene detta continuamente e che verranno garantiti posti di lavoro e la disoccupazione non aumenterà. Certo è che i 20 milioni di migranti che sono tornati a casa, che non hanno più trovato lavoro, i 5 milioni e mezzo di laureati che sono a casa in questo momento devono veramente sperare che quello che dice Wang Jiabao e Hu Jintao sia vero. Ricordi agli ascoltatori che ci sono altri 7 milioni di laureati che quest'anno aspireranno a entrare nel mercato del lavoro. Negli appunti che ci hai mandato della tua trasferta in Cina abbiamo notato con particolare interesse questo progetto di libro bianco da parte del governo cinese dedicato al Tibet. Di che si tratta? Una specie di stato delle cose, stato dell'unione in salsa cinese? Pubblicato, devo dire, quasi integralmente in tutti i quotidiani nazionali un libro bianco sul Tibet in cui si evidenziava che la liberazione di 50 anni fa del Tibet è paragonabile alla liberazione degli schiavi degli Stati Uniti, certo. In cui si è evidenziato che gli occidentali non hanno compreso assolutamente nulla di quella che è la vera situazione del Tibet. Un Tibet che sta crescendo, secondo il governo, a ritmi vertiginosi in termini di prodotto interno lordo e dove la libertà è assoluta. Ormai mi sembra che quella della, quanto si respira. È quella del grande equivoco, del mi dispiace ma voi di là non capite, sia un po' la linea ufficiale, no, del governo cinese. Assolutamente la linea ufficiale, e oggi tra l'altro viene ribadito il fatto che non ci sono assolutamente tensioni. E non si prospetta un mese assolutamente tranquillo nonostante l'anniversario. Vorrei chiudere con questa nota su un esperimento di social card in Cina, un argomento che è al centro di quotidiani battiti anche qua, ma cosa succede lì? Come funziona? Potremmo dire, mutuando dall'Italia, gli Hu Jintao Bond, nel senso, o la social card cinese, nel senso che sono partiti con una sperimentazione dei coupon in una città per dare alla popolazione, ai poveri, un certo ammontare di renminbi al mese per fare acquisti. La vogliono estendere a livello nazionale, tuttavia qui, e ancora torno al tema della libertà, qualche polemica è comparsa, nel senso che è reputato un esperimento di pura immagine senza un impatto reale su quella che è la vita di tutti i giorni della popolazione. C'è un pezzo d'Italia anche in Cina. Grazie Giuliano, abbiamo tanti altri temi da sviluppare insieme, lo faremo settimane nei prossimi giorni. Assolutamente, un caro saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Giuliano Noci, docente di marketing al Politecnico di Milano. Ed ecco qua, un minuto, due minuti alla fine del programma. Si è scocciato perché dicevamo che era l'altra che era successo. Guardate chi è spuntato. Abbiamo dato troppo spazio a Hillary e non è stato contento, si è connesso. Eccolo qua. Of Columbus needs the courage and the commitment of this graduating class. Io noterei il fatto che Hillary e Milano è alle prese con i leader del mondo e in questo momento Barack Obama sta inaugurando un'accademia di polizia a Columbus, Ohio, lo stato di Joe the Plumber, tra l'altro. Meglio Hillary forse. Non lo so, c'è qualcosa che non va qua nelle gerarchie. Comunque lui si fa il suo lavoro. Tra l'altro Joe the Plumber ha fatto causa allo stato dell'Ohio perché dice hanno interferito nella sua privacy, ormai sta raccogliendo. Ormai è una star anche in questo. Gli ultimi spiccioli. Il discorso di Obama ve lo risparmiamo, sta veramente inaugurando un'accademia di polizia, temo. In finisce la settimana di Jefferson 2, l'arte della svolta. Sono Stefano Pistolini, qui a mio fianco c'è Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Filippo Aureggi a Milano. La mail jefferson2@radio24.it, le due ormai leggendarie pagine Facebook, redazione Jefferson 2 per contattarci, parlare con noi, e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per partecipare ai dibattiti e all'apposito spazio dal vivo, in trasmissione, in diretta. Iscrivetevi numerosi e lavoreremo, collaboreremo e discuteremo insieme. Il programma va in replica alle 24, è disponibile in MPEG, in podcast, attraverso il sito della radio www.radio24.it. Ci risentiamo lunedì attorno alle 4 qui su Radio 24. Buon weekend a tutti. We'll